Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e 9 minuti, un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Oggi notizie sul fronte delle regioni, l'ultima ora, praticamente 5 minuti fa il ministro per la funzione pubblica Filippo Patroni Griffi, in un'audizione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera, ha detto in sostanza: il governo sta riflettendo per operare un intervento chirurgico sul titolo quinto della Costituzione, quello che fu cambiato dall'ultimo governo di centrosinistra, prima dell'ultimo governo Berlusconi, e che riguarda le funzioni delle regioni, perché noi continuiamo a sostenere, a parte che quel cambiamento fu un pastrocchio, ma soprattutto dare alle regioni la possibilità di avere tutta questa attività, chiamiamola così, di politica estera, è all'origine anche politica estera, ma anche di altre funzioni, è all'origine anche di sprechi che stiamo raccontando non da 2-3 settimane, da quando è apparso Batman, ma, ossia Franco Fiorito, ma da almeno un anno nella rubrica che chiamammo "Ma cos'è questa crisi?". Certo, oggi c'è la vicenda Saggese, ne parleremo nella seconda ora del programma, parlando anche con chi, con alcuni sindaci o amministratori di comuni che non si sono visti dare i soldi. Per chi se la fosse persa, Giuseppe Saggese è accusato di peculato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA. Allora, lui era l'amministratore di fatto della Tributi Italia S.p.A., che era una società che aveva la concessione a riscuotere i tributi locali, l'ICI, TOSAP e altre entrate, in oltre 400 comuni. Arrestato oggi, si scopre che il buon Saggese avrebbe operato, cosa faceva? Riscuoteva le imposte, ma non le girava ai comuni, se le teneva. Si è trattenuto oltre 100 milioni di euro in complessivamente, a livello personale almeno 20 milioni. Contestualmente la procura ha anche disposto sequestro per equivalenti di 8 milioni e anche diverse perquisizioni a Rapallo, Recco, Cogorno, Genova, Roma e Borgonovo del Tidone nei confronti di altri soggetti indagati, tra cui 4 nei confronti dei quali è stato disposto l'obbligo di dimora. Tra i comuni beffati c'è un po' di tutto, nel senso che abbiamo Villa Literno, Scanzano Ionico, Castelmorone, Vibonati, Caserta, Pomezia, Augusta, Frosinone, questo al centro-sud, Capaci, Priolo Gargallo, ma andiamo anche al nord, Trezzano sul Naviglio, Vercelli, Limbiate, San Michele di Ganzaria, Castelletto d'Orba, Ovada, Stezzano. Decine e decine di comuni che avrebbero dovuto ricevere i soldi da lui riscossi come tributi locali e invece che tratteneva. Dico che questa vicenda va a collocarsi in una giornata in cui anche la Corte dei Conti è tornata sul tema dell'evasione fiscale. Io con la Corte dei Conti ce l'ho da alcuni giorni e con il Presidente Giampaolino, perché non è possibile che stia parlando di tutto tranne che degli scandali che noi vediamo. Dov'era la Corte dei Conti in questi giorni? Io capisco che lei parli di macroeconomia, di pareggio di bilancio, dell'effetto austerity sulla parte ciclica dell'economia o su un effetto anticiclico di alcune misure. Sono contento che oggi Giampaolino sempre parli dell'evasione fiscale. Serve un patto sociale per la lotta all'evasione e al calo di tasse, serve un fisco più equo e meno distorsivo, capirai? E poi dal circuito dell'evasione c'è un effetto domino, che l'evasione è più sofisticata nelle grandi società e via così, che tra IVA e IRAP c'è un'evasione da 46 miliardi di euro all'anno. Detto questo, mi piacerebbe sentire anche il presidente Luigi Giampaolino dire qualcosa sui controlli. Li avete fatti in questi anni alle regioni, ai comuni, alle province? Sta uscendo di tutto, praticamente è un germinaio quello a cui stiamo assistendo, e la Corte dei Conti ci parla però di altre cose e soprattutto del fatto che serva un patto sociale nella lotta all'evasione per arrivare al calo delle tasse, mai sentita prima. E ora che abbiamo la notizia, possiamo anche raccontare quelle in breve. 349-238-6666 per i vostri sms. avremo tra l'altro come ospiti sia il comune di Gallarate. Ieri abbiamo raccontato come ha fatto la municipalizzata di Gallarate a passare da un attivo di 12 milioni a un passivo di 22. La municipalizzata che gestisce acqua, luce e gas, con spese allucinanti: 20.000 euro per l'albero di Natale, 160.000 euro di strene natalizie per i dipendenti e altre 50.000 euro di ristoranti per rappresentanza. Avremo modo di parlarne con il comune di Gallarate e avremo anche ospiti nella seconda ora del programma, due rappresentanti dei comuni invece fregati da Saggese. Partiamo però dai mercati: più 0,40% Milano in questo momento, meno 0,17 Parigi, più 0,40 Francoforte, più 0,30 l'America e più 0,20 Londra. Bene in pregilo, più 2%, Exor più 1,70 come la Popolare di Milano, Telecom Italia, il Banco Popolare e Unicredit. L'1% lo guadagna Mediolanum e Ubibanca, ma anche Intesa San Paolo. Invece perde A2A lo 0,80, Enil lo 0,60 come Mediobanca, Diasor in meno 0,60. Calmi, devo dire, oggi i mercati, e va bene anche così. Il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Ha perso oggi 2 dollari e passa a New York a 89,77 dollari. Lo spread italiano è sempre sui 350-357 punti. E quello spagnolo sempre a 433 punti, ossia quanto costa l'Italia trovare finanziatori per il suo debito è del 3,57% in più come rendimento quello che deve offrire l'Italia per trovare finanziatori rispetto alla Germania. La Spagna deve offrire il 4,3% in più di rendimento per trovare finanziatori per il suo debito rispetto sempre alla Germania. Però il ministro dell'economia Vittorio Grilli dice oggi in audizione alla Camera: ci sono segnali di maggiore stabilità finanziaria. Dalla presentazione del DEF nel mese di aprile lo scenario macroeconomico si è ulteriormente deteriorato a seguito dell'acuirsi delle tensioni sui mercati del debito sovrano e per effetto dell'incertezza caratterizzato il contesto dell'area dell'euro e per il rallentamento generale dell'economia mondiale che si sta osservando in questi mesi. Soltanto di recente stanno delineandosi segnali di una maggiore stabilità finanziaria che dovrebbe portare, sia pure con un evitabile ritardo, anche a una migliore performance della nostra economia. L'Italia, che è un paese medio-piccolo nel mondo, deve agguantare la crescita mondiale. In questo momento siamo penalizzati, la crescita mondiale ha rallentato, ma quello che non dobbiamo assolutamente fare, quello che è successo nel passato, è essere un paese impreparato a cogliere la ripresa, perché non si è lavorato sufficientemente sui fattori strutturali della nostra competitività. Quindi tutto ciò che abbiamo fatto in termini di riforme strutturali, di messa a punto dei conti pubblici, è proprio per riuscire ad avere un'Italia che, appena l'economia mondiale recupera, di riuscire a essere agganciata, perché come grande paese manifatturiero con una traduzione di competitività nel mondo ha grandissime carte da giocare. È chiaro che il momento congiunturale mondiale è molto complesso, perché ci sono molte incertezze, non solo in Europa, no? Quindi legate anche alle economie asiatiche, all'economia americana. Quindi, però noi condividiamo, come ho detto nell'audizione, le nostre previsioni non sono previsioni che facciamo da soli in una stanza, no? Sono previsioni che vengono elaborate con un continuo confronto con tutte le istituzioni internazionali, che loro pure condividono questa progressiva riaccelerazione dell'economia nel prossimo anno, nella seconda metà. E quindi speriamo proprio che sia così. Ancora sempre il ministro Grilli: la stabilità finanziaria è essenziale per la crescita. Il governo è impegnato anche sull'equità e la crescita. Agiremo con incisività per ridurre il debito. Per la crescita non c'è bacchetta magica, mi sembra che fin qua ci sia anche poca notizia. Il pareggio è ineludibile, il pareggio di bilancio è ineludibile, gli enti locali non lo ostacolino. poi c'è una cosa che mi ha lasciato molto perplesso, nel senso che il ministro Grilli ricorda come per i pagamenti della pubblica amministrazione, sapete che la pubblica amministrazione, soprattutto la sanità, è in ritardo di mesi, in alcuni casi anni, nei pagamenti ai fornitori e ai privati. Si calcola che la cifra sia tra i 60 e i 70 miliardi di euro. Però Grilli ha già detto: attenzione, abbiamo stanziato 6 miliardi e 700 milioni di euro per anticipare i pagamenti della pubblica amministrazione più in ritardo, cioè pagare quei privati che aspettano da più tempo. Purtroppo ad oggi devo dire che 1 miliardo e 400 milioni non sono stati utilizzati, non sono arrivate richieste e rischiano la perenzione. Ora, attenzione, lo dico a qualche imprenditore in ascolto, capite bene il meccanismo, ma questi soldi vanno utilizzati, il governo li ha messi a disposizione, 1 miliardo e 4 non è poca cosa, vista l'ammontare e anche i tempi di questi ritardi. Quanto alla cessione della partecipazione di Eni ed Enel, lì Grilli ha frenato, ha detto: la partecipazione del Tesoro, che ha il 29%, è strategica ed è legata al nostro approvvigionamento energetico, non pensiamo a cedere quote di Eni ed Enel, lo ha detto al microfono la nostra Alessandra Schepisi. In questo momento queste cosiddette partecipazioni strategiche sono legate al nostro approvvigionamento energetico, non è in questa prima fase il tipo di dismissione a cui stiamo pensando. In ogni caso, quando si dismette qualsiasi tipo di bene pubblico, bisogna sempre comparare il beneficio dalla vendita e il beneficio nel mantenere l'asset e dai dividendi che questo asset potrebbe portare. Quindi penso che questo faccia parte di un'analisi diciamo completa prima di impostare qualsiasi operazione. Ancora due notizie, poi arriviamo invece al racconto purtroppo quotidiano degli sprechi delle regioni. La cassa integrazione a settembre è salita del 3,6% rispetto a un anno prima, un aumento delle domande del 28,8% rispetto ad agosto, ma nei primi nove mesi dell'anno la cassa integrazione purtroppo è salita del 9%. Nel frattempo, ne parleremo più avanti, il rapporto dell'Eures sul fisco segnala come in media il 60% delle colf, babysitter e badanti siano in nero, ma il record è nelle ripetizioni private fatte da insegnanti. E quindi il doppio lavoro in questo caso, l'89% è in nero e l'evasione è al 40% nelle libere professioni. La cosa interessante è che il 7 italiani su 10, il 70% è a favore del carcere per gli evasori. Non vorrei che la percentuale fosse così alta, perché in questo paese si pensa sempre che l'evasore sia un altro, sia l'altro. Però 70%, 68,7% per la precisione, è favorevole a trasformare l'evasione fiscale in reato penale. E poi abbiamo visto anche la frase, diciamo, che resterà nei libri di storia di Giampaolino. Oh, quando vuole, Presidente della Corte dei Conti può venire ospite, l'abbiamo cercato nei giorni scorsi, anche la nostra Raffaella Calandra per un'intervista. Ha detto: la faccio scritta, siamo una radio, Presidente, abbiamo difficoltà, facciamo una verbale, orale. Allora, le notizie, l'aggiornamento dalle regioni, vede oggi una nuova acquisizione di documenti degli uffici dei gruppi consiliari dell'Assemblea Legislativa dell'Emilia Romagna, cioè la Regione Emilia Romagna. E sono tornati infatti questa mattina gli investigatori delle Fiamme Gialle negli uffici regionali. E ai gruppi consiliari militari hanno chiesto le pezze d'appoggio ai rendiconti delle spese sostenute durante la legislatura in corso. E qui arriviamo subito al tema. Devo dare una buona notizia: il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato il taglio dei consiglieri e degli assessori da 60 a 50 i consiglieri, da 14 a 11 gli assessori. Si poteva fare uno sforzo anche in più, io avrei fatto da 60 a 30 e da 14 a 8, così 7, facciamo una bella metà. Però la cosa interessante è che, come sempre, questo taglio entrerà in vigore a partire dalla prossima legislatura. E quando mai? Allora, torniamo a raccontare, non è la crisi che gli altri non sentono ormai, è, diciamo, la crisi di cui i bilanci regionali se ne sono allegramente fregati. Non voglio usare oggi termini come facciamo, non lo facciamo mai, non voglio usare termini volgari, di cui si sono allegramente fregate le nostre regioni. rosso e il bianco, il maschio forte, i ministri puliti, i buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tre che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tre che più. Allora, alla faccia di chi dice che citiamo solo le regioni del sud, solo le regioni gestite dal PDL, ma sicuro che non è così, oggi le regioni di cui parleremo sono tutte al nord e sono proprio bipartisan, perché iniziamo con l'Emilia Romagna, dove i consiglieri nel mese di agosto hanno chiesto rimborsi per 44.000 euro. Ora, io capisco tutto, ma insomma, nel mese di agosto lo sappiamo tutti che i consigli regionali sono chiusi, ma che faccia tosta avete, a meno che non sia stata proprio una cosa d'emergenza, a chiedere 44.000 euro di rimborsi? Ma provate in un'azienda, in una società, in uno studio, a chiedere un rimborso ad agosto quando lo sanno tutti che uno è in vacanza, e vedete cosa vi dice l'ufficio del personale. Non c'è niente da fare, anche ad agosto 44.000 euro. E allora alla Regione Emilia Romagna, il nostro tango della Maiella, perché devo raccontare spese così, proprio così. E allora, i 44.000 euro dei consiglieri emiliani, ma cosa avranno fatto? Allora, rimborsi chilometrici, quelli a cui hanno diritto i consiglieri regionali che risiedono lontano da Bologna. Allora, nell'agosto 2011 la spesa per questa voce ha raggiunto i 44.000 euro. E una decina di esponenti di vari partiti hanno chiesto in quel mese il rimborso per 12 volte. Ma scusatemi, in quell'estate, cioè agosto del 2011, l'assemblea regionale dell'Emilia-Romagna è rimasta chiusa dal 21 luglio all'8 settembre. Ma come avete fatto a chiedere questi rimborsi? 44.000 euro. Ma la faccia come, diciamo... Ma anche la stupidità, voglio dire, ma anche la stupidità di chiedere i rimborsi 12 volte alcuni consiglieri, che è la soglia massima consentita se l'assemblea è chiusa. Ma rimborso di che? Per ora l'unico a essere finito nei guai è il consigliere regionale del PDL Alberto Vecchi, indagato per truffa aggravata, però se la Guardia di Finanza va a vedere, basta questo dato qua per, secondo me, indagare anche qualcun altro. È accusato di aver intascato, pensate, 86.000 euro di rimborsi, scusatemi, sostenendo di avere la residenza a Porretta Terme, mentre in realtà viveva a Bologna. Allora, il Corriere di Bologna ha interpellato due degli stacanovisti d'agosto, quelli che proprio agosto erano lì, l'assemblea era chiusa, ma loro erano lì sulle panchine della Montagnola a lavorare sotto il solleone. Allora, il leghista di Parma Roberto Corradi, rimborsi per 2.852 euro, e il rappresentante del Partito Democratico di Ferrara Roberto Montanari, 1.423 euro di rimborsi ad agosto. Ma loro non ci stanno a passare per i furbetti di turno. È tutto certificato, tutto documentato, sono andato in ufficio per lavorare, giura il primo. E il secondo, andavo a preparare le pratiche di settembre. Mamma mia, che dedizione al lavoro! Ad agosto, invece che essere in vacanza, andavi a preparare le pratiche di settembre. Ho incontrato persone e mi sono occupato dei problemi degli idrocarburi. E qual è il problema degli idrocarburi? Voi capite perché non li invitiamo? Alcuni di voi ci chiedono, ma perché non li portate in trasmissione? Perché non voglio sentirmi preso per i fondelli con risposte del genere, sennò divento una belva. Allora preferisco raccontarle senza neanche... Non c'è parola da dare in questi casi. Fine. I componenti della consulta degli Emilia Romagnoli nel mondo, questa è un'altra cosa che mi fa impazzire. Allora, costa 3 milioni di euro sta cavolo di consulta che deve gestire gli emiliani nel mondo. La missione a valenza internazionale, infatti, ha speso 3 milioni di euro in missioni. Qualche voce, missione in Argentina, 30.000 euro rotti. Soggiorno a Cattolica, pro anziani di origine emiliano-romagnola, 40.000 euro, vabbè. Soggiorno al costo hotel di Riccione dei discendenti immigrati residenti nei paesi europei. Ma come fate a trovarli, boh? 30.000 euro. E allora un bel applauso ai consiglieri emiliani che ad agosto Stakhanov, no, lì c'era il Partito Comunista una volta, è rimasta l'impronta di Stakhanov, che sono andati tutti al lavoro e hanno speso 44.000 euro di rimborsi per la benzina e appunto i rimborsi chilometrici, nonostante l'assemblea fosse chiusa dal 21 luglio all'8 settembre. Ce ne fosse d'Italia così che lavora. Puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, drag e più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, drag e più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, drag e più. E dall'Emilia Romagna al Piemonte il passo è breve, sempre di Po parliamo, ma non c'era la razza padana una volta, quella che era superiore, no? Ricordo male io? La razza Piave e la razza padana, vabbè. Allora vediamo un po', in Piemonte ad agosto 2011, anche qui tutti Stakhanov nel nord, le missioni dei consiglieri regionali sono costate 38.000 euro, un record. Anche lì l'assemblea era chiusa. Però vediamo chi è Stakhanov, super Stakhanov. Roberto Boniperti, vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte in quota PDL, ha incassato 2.700 euro di indennità di presenza e 2.300 euro di rimborsi chilometrici nel mese di agosto per ben 22 missioni di rilevanza istituzionale. 22! Uno per ogni giorno di lavoro, cioè ogni giorno che ha lavorato era in missione di rilevanza istituzionale, al netto degli 8 giorni di indennità garantiti comunque dalla legge piemontese. Ma poi c'è anche Maurizio Lupi, Verdi Verdi, 2.000 euro, quello che diciamo, le missioni le fa, mi sembra, con un obiettivo anche femminile. E poi 1.400 euro per 17 eventi. Poi c'è Rosanna Valle, del PDL, 18 missioni di rilevanza istituzionale, 3.000 euro. Angelo Motta del PD, 2.200 euro per 14 missioni di rilevanza istituzionale. Allora chiudiamo però con una buona notizia per tutti questi Stakhanov e per i politici che rischiano di essere travolti dagli scandali. Una risposta prima di tutto, però mi scrive un ascoltatore: ma ogni tanto parlate anche di economia. No, mi scusi, ma questa secondo lei non è economia? Cioè i buchi, 4 miliardi che abbiamo stimato come sole 24 ore, che sarebbero risparmiati ogni anno se tutte le regioni avessero dei costi per il personale, per le giunte standard, non sono economia? Visto che poi stiamo ancora discutendo se arriverà una nuova manovra sull'IVA oppure no. Secondo me è super economia. O lei pensa solo alla finanza, forse. Chiuso questo, dicevo, c'è una buona notizia per tutti i politici della regione, delle province, dei comuni e del Parlamento che temono di essere rottamati, c'è il rischio che forse il voto popolare questa volta non sia così morbido. Beh, a Pisa hanno aperto lo sportello per i politici psicologicamente distrutti dal rischio rottamazione, cioè quelli che hanno perso la loro poltrona. L'associazione Baby Consumers utilizzerà alcuni psicologi. E dice Francesca Lemmi, io la voglio invitare questa Francesca Lemmi, che per loro non vi sono molte alternative, la via del ritorno al lavoro per chi lo aveva oppure attendere passivamente momenti migliori. L'attesa passiva del politico trombato o rottamato alimenta la depressione e pensieri distruttivi che rischiano di prendere sopravvento. La crisi non solo economica è forte e il crollo psicofisico del politico trombato può essere tremendo. Ecco lo sportello che a Pisa giustamente hanno già ribattezzato SOS Trombati, e voglio dire, attenzione, ha ragione la psicologa che il politico rottamato può avere l'attesa passiva alimenta la depressione e i pensieri distruttivi che rischiano di prendere il sopravvento. il crollo psicofisico può essere tremendo. Da quello che leggo io, cara psicologa, dai nostri ascoltatori, anche certe notizie sugli sprechi, le malversazioni portano i nostri ascoltatori ad avere pensieri distruttivi, però distruttivi verso i consiglieri, non verso se stessi, non autodistruttivi. E comunque, Quinto Potere e Vasco Rossi. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più. La cosa più bella è che la psicologa dello sportello del politico rottamato dice: insomma, i problemi più grossi sono soprattutto nei riguardi della famiglia. Perdita di visibilità e status symbol. Questi politici che non vengono rieletti non ricevono più auguri a Natale, arrivano poche telefonate e nessuno si ricorda più del loro compleanno. Capirà. Benvenuti nel mondo reale. Assessore alle attività produttive del comune di Gallarate, Angelo Bruno Protasoni, buonasera. Buonasera a lei. Beh, lei non avrà mai bisogno dello sportello, no? Nel caso anche un domani non venisse rieletto, uno torna al suo lavoro, no? Io faccio l'imprenditore, quindi ecco, non vivo di politica. No, perfetto, anche perché insomma il fatto di perdere visibilità è stato un simbolo, non ricevere più auguri a Natale. È terribile questa cosa qui. Se vuole glieli facciamo noi, se si levano dalle scatole, la piantano di rubare, glieli facciamo noi, organizziamo ogni giorno una telefonata di auguri di Natale. Senta, no, lei ci ha scritto perché ieri noi abbiamo ricordato lo scandalo della municipalizzata di Gallarate, dove una società che gestisce acqua, gas e rifiuti è passata in 10 anni da un attivo di bilancio di 12 milioni di euro a un rosso, a un buco di 26 milioni di euro. Secondo me questa è economia. E lo dico anche a chi scrive. Le chiedo un minuto di pazienza perché ho il metodo e la pubblicità e poi torniamo da lei. Vorrei capire come fa una municipalizzata che gestisce luce, acqua e gas, per esempio, ad avere 50.000 euro nei ristoranti di spese di rappresentanza de che? minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, ci ha scritto un ascoltatore, è una cosa bellissima, perché è una specie di poesia. L'ascolti anche lei, assessore Protasoni, assessore di Gallarate. Dice: ho trovato un bel sito, non vi sono penati e sofferenti in quel luogo fiorito. Vivono tutti in allegria alla faccia tua e mia. Bella, no? Bellissima. Bella per non piangere. Senta, come fa una municipalizzata che si occupa di acqua, gas e rifiuti a Gallarate, che ha 50.000 abitanti, a passare da 10 milioni di attiva a 26 milioni di buco, magari spendendo 20.000 euro per l'albero di Natale, 180.000 euro per le strenne natalizie per i dipendenti, 200.000 euro per le piscine a confine con la Svizzera e 50.000 euro al ristorante per la rappresentanza? Glielo spiego con una premessa doverosa. Noi rivendichiamo come amministrazione comunale di Gallarate il fatto che vengano fuori oggi tutte queste notizie puntualmente, che noi avevamo denunciato quando eravamo fino all'anno scorso all'opposizione. Quindi a Gallarate abbiamo cambiato le cose con un'azione politica, non con un'azione giudiziaria, non con una campagna di stampa, ma con un'azione politica. Questo penso sia una cosa che vada assolutamente rimarcata. Quindi voi dite, l'ha fatto la giunta precedente, e va bene. Allora... questo perché ovviamente va detto. Detto questo, non solo l'ha fatto la giunta, ma noi l'avevamo denunciato mm-hmm. Grazie a quella denuncia siamo stati eletti. Oggi ovviamente dobbiamo dar conto di come fossero giuste quelle denunce e giorno per giorno noi tiriamo fuori tutti i dati che lei ha citato e tanti altri potremmo citarle per spiegare come noi ci siamo. Vabbè, allora andiamo però sul concreto, questi soldi farete delle cause civili, allora, azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori precedenti? Ovviamente i dirigenti, i nuovi dirigenti dell'azienda hanno trasmesso tutta la documentazione alla Corte dei Conti, ritorniamo sul discorso perché la Corte dei Conti faccia il suo dovere in questo senso, e ha promosso un'azione di responsabilità nei confronti del passato amministratore. Io penso che sia veramente da ricordare il fatto più grave, forse, che non è ancora emerso, è quello che la vecchia azienda municipalizzata di Gallarate, quella che aveva i soldi in banca, era una ed è stata spezzettata negli 10 anni in 9 aziende, tutte con lo stesso presidente, che era o presidente o amministratore delegato di questa azienda. E si era anche autoassunto come direttore generale di una di queste aziende. Lei come si chiama? Si chiama Gioacchino Caianiello. Ed è stato successivamente anche condannato in primo grado per estorsione. Ah, proprio un personaggino giusto da mettere nella municipalizzata. È una condanna di primo grado e non possiamo certo... No, ho capito, ma non l'ho mica abbiamo, detto... Non l'ho no, lo dico, anche noi che l'abbiamo... No, mi scusi, c'è la presunzione di innocenza fino al processo. Intanto per ora c'è la presunzione di colpevolezza, poi se la Corte d'Appello dirà che non è colpevole, lo ricorderemo, ma per ora è stato condannato. Non è che quando condannano lo spacciatore è spacciatore e se uno tira un buco del genere, ma è solo l'appello. No, l'hanno condannato qui. Per ora, per la legge italiana, è colpevole, caro Caianiello. Detto questo, però, lei quanto guadagna di stipendio, assessore? Netti 1.200. Ecco. Allora, essendo stato sforato dalla passata amministrazione il patto di stabilità, anche per questi motivi, noi ci siamo, non solo ce l'avamo già autoridotti lo stipendio del 10%, adesso ce lo siamo dovuti ritagliare di per un altro 30%, il mio stipendio è di 1.200 euro al mese. Ecco, lei quando ascolta quello che io raccontavo, per esempio, dei consiglieri dell'Emilia Romagna che hanno speso ad agosto, nonostante la regione fosse chiusa, il consiglio regionale fosse chiuso, 45.000 euro in rimborsi auto chilometrici. Ma al di là del fatto se fosse vero o no, io dico, ma perché deve avere un rimborso un assessore? No? Dammi un forfè. Ma lei non pensa che il problema sia anche nel troppo denaro che gira? Cioè quando... Allora, mi dica. Sicuramente nei comuni, è diverso. Nei comuni dove siamo veramente tutti alla scena del gas, non è quello il problema sicuramente. Probabilmente può darsi che lo sia nelle regioni, da quello che abbiamo letto sicuramente lo è stato nelle regioni, perché il problema è quello della mancanza di uno Stato centrale forte capace di controllare questa autonomia, tra virgolette, che poi ha preso una deriva assolutamente. Però lei quando stava all'opposizione, mi scusi, e c'era la precedente coalizione appunto Forza Italia, Lega Nord e Alleanza Nazionale. No, attenzione, chiedo scusa, la Lega Nord è uscita perché poi era un monocolore PDL. Ha ragione, guarda, massimo rispetto. Proprio per questi motivi. Bene, e questo fa onore alla Lega. Fa onore alla Lega, ci mancherebbe. Dico, lei notava, perché fare 10-26, fare praticamente 36 milioni di buco tra l'attivo e il passivo poi accumulato, in una municipalizzata qualcosa si noterà, cioè, non so, ristoranti, certo, si vedeva qualcosa, no? Non si vedevano i dettagli, perché questi dei ristoranti, sono cose che ovviamente il privato cittadino, io ero un privato cittadino fino all'anno scorso, non ero neanche un consigliere comunale e quindi facevo la mia campagna da privato cittadino andando a vedere i bilanci per quando venivano pubblicati al mese di settembre dell'anno successivo, quindi si era sempre in ritardo di quasi un anno rispetto alla chiusura del bilancio. Detto questo, i dati macroscopici erano evidenti. Quando è saltato fuori che abbiamo visto e denunciato che l'azienda aveva costruito e gestiva in perdita di centinaia di migliaia di euro ogni anno una piscina in un comune saltrio che i gallaratesi non sanno neanche dove sia e che non c'entra niente comunque col comune di Gallarate, ovviamente li abbiamo, ci siamo chiesti e abbiamo chiesto e stiamo chiedendo ancora oggi perché diavolo siamo andati a buttare quasi 1,5 milioni di euro in una piscina. Pazzesco. In un comune che è una cosa, ma un asilo in più a Gallarate, no? Beh, fortunatamente a Gallarate siamo messi bene con gli asili, non ne abbiamo bisogno, ma abbiamo talmente tante cose. Io come assessore alle attività produttive vivo ogni giorno i problemi delle aziende. I problemi, aziende ai quali noi avremmo potuto dare più servizi, avremmo potuto dare più una serie di agevolazioni, di incentivi. No, noi guardi, facemmo con Oscar Giannino un'iniziativa ad aprile che si chiama Disperati Mai, che è ancora online. Ora, sarebbe bello intrecciare la disperazione delle migliaia di lettere che abbiamo avuto con la vita facile di alcuni assessori e farli incontrare così in un prato senza veramente telecamere, e vedere un po' che cosa hanno da dirsi i vari Fiorito. Veramente, e dall'altra Lupi, parte le persone che ogni giorno cercano di combattere nei comuni, all'interno dei comuni, con un'assoluta mancanza di risorse, grazie purtroppo allo sperpero che è stato fatto in passato. Allora, assessore alle attività produttive del comune di Gallarate, appunto caso clamoroso, perché poi oltre ai 50.000 euro che la giunta precedente ha lasciato nella gestione della municipalizzata a ristoranti per spese di rappresentanza, c'è stato anche l'acquisto di 3 auto di grossa cilindrata per i dirigenti e la moltiplicazione di incarichi e poltrone. Pensate che l'appalto per le pulizie della sede della MSC costava 400.000 euro, adesso ne costa 100.000. Urbana. Cioè l'azienda che si occupa, è bellissimo, questa è bellissima. Ha dato un appalto di 400.000 euro per la pulizia dei propri uffici. Ma c'è di mezzo l'Andrangheta, c'è la Camorra, c'è qualcosa lì sotto? No, non lo sapete. Assolutamente. Non lo sapete. Vabbè. Perché no? E che sarebbe come se un ospedale desse in appalto a una casa di cura i servizi infermieristici. E sarebbe come se noi dessimo in appalto la ricerca delle notizie a qualcun altro. È bellissimo. La cosa bella è che ne costò 400.000 euro, adesso ne costa 100.000. Ultima domanda, ma come si fa a controllarvi? Allora, io penso che ripeto, a Gallarate noi abbiamo dato una dimostrazione. Il controllo arriva da una puntuale informazione alla cittadinanza. Se i bilanci, se si obbligassero tutte le aziende e i comuni a pubblicare, come già i comuni stanno facendo in grandissima parte, a pubblicare tempestivamente tutti i bilanci dettagliati, sicuramente ci sarebbe chi, come noi abbiamo fatto negli anni scorsi, denuncia queste cose, ci sarebbe una libera stampa, come c'è stata a Gallarate, che riprende queste informazioni, le trasmette ai cittadini e i cittadini loro cambiano le cose. A Gallarate è successo così, sono stati i cittadini a cambiare, non è retorica questa. Noi non abbiamo chiamato la magistratura e non abbiamo fatto campagne scandalistiche, l'abbiamo fatto politicamente chiamando i cittadini. Beh, allora un suggerimento al governo Monti, che è chiaro che è un governo che si occupa di problemi internazionali, della credibilità dell'Italia nel mondo, e ci mancherebbe, però anche i casi di casa nostra, qualche ministro potrebbe sporcarsi le mani su queste vicende, no? O sono tutti troppo impegnati a ragionare nei grandi consessi? Allora, una piccola leggina, obbligo per tutte, il patrone Griffi è il ministro di riferimento, obbligo per tutte le amministrazioni comunali, provinciali e regionali di pubblicare nell'arco di una settimana le spese messe a bilancio e realizzate. Nell'arco di una settimana c'è internet, così poi uno va sul sito, le guarda, scopre che l'appalto delle pulizie è costato 400.000 euro e magari l'anno prima ne costava 100.000, scopre che avete speso magari 3.000 euro di rappresentanza per ristoranti, nonostante non si capisce che rappresentanza faceste. Grazie, bocca al lupo, grazie a voi, a lei, per l'opera di grazie denuncia. Per l'aiuto che ci date sempre. Grazie. No, non è un aiuto, noi denunciamo, poi l'aiuto. No, l'aiuto che date alle persone che cercano di lavorare seriamente, anche nei comuni. 18 e 8 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, la borsa. Dicevamo, oggi la faccio io, la giornata è molto molto calma, quasi piatta, ogni tanto ci sta, visto che ve ne sono state poche in questi mesi, in questi anni. Borse molto incerte, resta qualche tensione e preoccupazione sulla Spagna, ma resta finché Rajoy non farà sapere se e quando chiederà gli aiuti, e inizia anche l'attesa invece per il dato che arriverà venerdì dagli Stati Uniti sulla disoccupazione. Ben comprate, anche se non con rialzi particolarmente forti, le banche oggi, tra cui la Popolare di Milano più 1,13, UbiBanca più 1,1, Intesa più 0,80, Popolare Emilia Romagna mezzo punto percentuale, il Banco Popolare che guadagna l'1,60%. L'effetto Chrysler, i buoni dati ieri sia come vendita in America che come vendita in Canada, continuano a far crescere Exor, che è il miglior titolo, e la finanziaria di controllo del gruppo Fiat, che è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, più 1,70%, ma bene anche Fiat Auto più 0,50%. Sul fronte opposto invece A2A cede l'1%, Mediobanca lo 0,90%, Eni meno 0,90%, oggi deboli tutti gli energetici, il petrolio è sceso sotto i $90 al barile, Tenaris meno 0,70%, Diasorin mezzo punto percentuale di calo come Atlantia. Ha recuperato Finmeccanica, che ha chiuso perdendo lo 0,30%, lì il titolo cresce quando si riaprono le ipotesi di una cessione di Ansaldo Energia. Oggi invece nuove ipotesi su una newco, su una nuova società. Ferragamo bene, ma non è l'unico, più 0,50%, c'è un report positivo, e Mondadori anche in crescita, c'è un buon andamento della divisione libri nella seconda parte dell'anno. Chiuderei con Telecom Italia, che è il secondo miglior titolo, più 1,70%, è un recupero dopo aver perso terreno in questi giorni sulle preoccupazioni che derivano dalla controllata brasiliana di Telecom Italia per presunte irregolarità. Migliori, peggiori in assoluto, Tiscali più 12,4%, Ross più 11,60%, e Mondadori dicevamo più 8,96%. Fronte opposto invece, titoli molto sottili, Cell Therapeutics meno 4,20%, Meridie meno 7,23%, Telecom Italia Media sulle risparmio meno 9,88%. 349-238-6666 per i vostri sms. Adesso parliamo, su due fronti completamente opposti, di evasione fiscale. Il primo fronte è la lotta all'evasione, e poi parleremo purtroppo anche di questa vicenda ignobile di questo Saggese, che si è fregato 100 milioni di euro, di cui 20 milioni almeno per uso personale, invece riscuoteva l'ICI e invece che girare ai comuni se la teneva per sé. Anche lì io non capisco come faccia uno a rubare così tanto senza essere scoperto, a maggior ragione se hai in concessione la riscossione tributaria. Ma ci arriviamo tra un attimo, perché oggi nell'ultimo rapporto Eures sul fisco emerge che il 60% delle colf, babysitter e badanti sono in nero, ma il record sta alle ripetizioni private, quindi anche gli insegnanti, 89% in nero. L'evasione invece nelle libere professioni è al 40%. La cosa che mi ha sorpreso di più è che 7 italiani su 10 in questo interpellati per questo rapporto hanno detto di essere favorevoli al carcere per gli evasori. E la nostra Anna Marino ha raggiunto il presidente di Eures, Fabio Piacenti, e il quale sostiene, insomma, che l'evasione dalle famiglie viene vissuta come un qualcosa che sono costrette a subire. Noi abbiamo lavorato sui tre segmenti del commercio, delle libere professioni e dell'artigianato e servizi alla famiglia. In questo caso quello che è evidente è innanzitutto nell'ambito dei servizi alla famiglia un'incidenza di prestazioni non fatturate pari al 60% nelle badanti, colf, babysitter. Un dato peraltro, uno dei pochi, tendenzialmente decrescente rispetto al passato, questo grazie alla regolarizzazione del lavoro immigrato. Questa percentuale però la rileviamo ugualmente in tutta la filiera della manutenzione e ristrutturazione della casa, quindi gli artigiani, i falegnami, i fabbri, gli idraulici, i tappezzieri e quant'altro, proprio ad evidenziare come il comportamento dell'evasione fiscale continui ad essere in Italia una vera e propria patologia per l'economia e per la società, perché sappiamo perfettamente che vengono tolte risorse ingenti necessarie proprio all'equilibrio economico del paese. I dati dimostrano che intorno alla famiglia appunto ruota anche certe volte una certa evasione fiscale, però c'è anche una reazione secondo il vostro rapporto che vuole il diciamo l'evasione come reato fiscale, è così? Sì, io credo che sia stato ampiamente superato qualsiasi atteggiamento di ambivalenza, di comprensione delle famiglie verso l'evasione. Tanto più oggi che la crisi richiede alle famiglie grandissimi sacrifici, l'evasione fiscale subita dalle famiglie è un elemento di grande frustrazione. Da questa frustrazione nasce una reazione molto forte, per cui una richiesta che coinvolge il 70% delle famiglie di trasformare l'evasione fiscale in reato penale, ma anche valori ancora più alti, vicino all'80%, di famiglie favorevoli al fatto di togliere le licenze e le abilitazioni ai negozianti e ai professionisti che non rilasciano scontrino fattura ricevuta. C'è, io credo, quel consenso sociale di cui molto oggi si parla e anche la Corte dei Conti l'ha sottolineato come elemento fondamentale per portare a compimento un contrasto efficace all'evasione fiscale. Mi pare che i nostri numeri oggi confortino proprio questa dimensione, questo punto di vista. Quindi non solo diciamo record di evasione nei servizi tipo le ripetizioni private, servizi alla famiglia, non solo record di evasione nelle libere professioni 40%, ma anche un grande record di adesione a una lotta più forte all'evasione stessa. E secondo i vostri dati l'azione del governo come vista? Ma proprio per quanto detto, l'azione è giudicata inefficace, proprio perché io credo che la famiglia non sia più disponibile a tollerare, diciamo, il famoso ricatto del professionista con il doppio prezzo, uno con fattura e uno senza. Credo che questo sia ormai un elemento di intollerabilità e che quindi si reverbera anche nell'azione del governo, a cui si chiedono strumenti più efficaci. Non si può chiedere alla famiglia di essere il terminale della lotta all'evasione, ma questa è una responsabilità diretta delle istituzioni. Vabbè, magari ha ragione l'Eures che anche negli italiani inizia a passare il concetto che l'evasione è un reato che va punito in maniera ancora più dura. Certo che poi cascano le braccia quando dobbiamo commentare notizie come quella che adesso vi racconto. L'amministratore di fatto della Tributi Italia S.p.A., società concessionaria per la riscossione dei tributi locali, l'ICI, la TOSAP ed altre entrate, in oltre 400 comuni italiani, è stato arrestato oggi dalla Guardia di Finanza perché ha eseguito l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Chiavari. Le accuse nei confronti di Giuseppe Saggese sono peculato, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento IVA. Saggese si è intascato, secondo l'accusa, 100 fino al 2010, imposte che aveva riscosso, non ha mai versato ai comuni, per oltre 100 milioni di euro. Nello specifico, lui avrebbe personalmente sottratto alla società circa 20 milioni di euro. Tantissimi comuni beffati, oltre 400. Pensate che Saggese per le proprie spese prelevava fino a 10.000 euro al giorno dai conti della società e poi venivano documentate consulenze o piani di riorganizzazione aziendale, operazioni societarie di natura straordinaria. Pensate che una delle consulenze era tutto un modo taroccato per fare uscire i soldi, sarebbe costata una di queste consulenze 2 milioni di euro per far che cosa? Per l'acquisizione di una società di riscossione di Brindisi che era già indebitata per 43 milioni. Tributi Italia è poi entrata in stato di insolvenza dopo le denunce dei vari comuni ed è stata dichiarata fallita nel 2011. Alcuni comuni però nel frattempo sono arrivati sull'orlo del dissesto finanziario. Allora, saluto e ringrazio due rappresentanti di questi comuni, Giovanni Battista Olivieri, che è assessore al comune di Ovada. Alessandria, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. E buonasera anche all'avvocato Giorgio Tomasino, sindaco di Trezzano sul Naviglia. Buonasera sindaco. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Di nuovo in diretta, dunque, partiamo con il sindaco, è la stessa cosa perché tutti e due, sia il comune di Ovada, provincia di Alessandria, che il comune di Trezzano sul Naviglio, provincia di Milano, sono stati fregati da Saggese. Sindaco, ma non ci si accorge subito di quando l'agenzia che deve fare le riscossioni per conto dello Stato non vi gira i soldi dell'ICI o altri tributi locali? Beh, si accorge, sì, soltanto che una prima insolvenza non vuol dire subito un'insolvenza generale e definitiva tale da giustificare il fallimento. In particolare, questo avviene fino al 2010 con la precedente amministrazione, in quell'anno arrivo io, ma praticamente arrivo a cose fatte, cioè a certificare una situazione paradossale. Se vuole poi spiego anche perché. No, me lo spieghi subito. Cioè, noi abbiamo un 800.000 euro di attivo che in realtà non c'è, perché noi abbiamo ancora un credito nei confronti della massa fallimentare pari appunto a questo importo, quindi dobbiamo iscriverlo nell'attivo, diciamo così, nell'entrata del nostro bilancio, sapendo bene che di fatto non ci sono, che quindi non... Cioè che quei soldi che Saggese si è fregato non li riavrete più? Non li avrete, sì, ma non possiamo neanche dirlo, perché ufficialmente ancora nessuno ci ha detto... Certo, vantate un credito nei confronti di un'azienda. Vantiamo un credito, e il credito non lo possiamo cancellare. Il tutto in un comune che in quegli anni violava il patto di stabilità, per cui da 21 milioni di spesa in parte corrente siamo scesi a 18, cioè abbiamo tagliato la spesa per i cittadini di 3 milioni di euro, praticamente in due anni. Ma non sarebbe meglio che la faceste voi a questo punto la riscossione? Sarebbe meglio, sì, se avessimo gli strumenti per farlo, ma noi siamo un comune che ha mezzi limitati, una situazione complicata e non è così semplice in buona sostanza, anche perché quando ci si affida a questi esattori si sa di poter fare affidamento anche su una competenza professionale, su strumenti, anche su una certa terzietà che hanno questi enti rispetto al problema della riscossione locale. Sì, oddio, la terzietà di Saggese era che fregava sia voi che i cittadini, cioè in questo era terzo. Guardi, se posso parlare, togliendomi un attimo la giacchetta professionale e quindi abbandonando un po' la preoccupazione per il garantismo necessario, la presunzione di innocenza. Mi sembra un po' strano che ci abbiano messo ben due anni ad arrestarlo, come era chiara la situazione per noi ad allora. Cioè nel Mi dica un'ultima cosa, a quali investimenti avete dovuto rinunciare non avendo queste entrate? Guardi, è un elenco talmente lungo perché non ci manca solo questo che dovrei iniziare una lamentela che... No, me ne dica un paio. Beh, ad esempio noi abbiamo delle strade che sono note nella zona per la proverbiale scarsa manutenzione, buche ogni 100 metri, veramente una situazione paradossale anche questa. E i soldi vi servivano per la manutenzione stradale, del manto stradale? Anche, certo, certo. Allora, Giovanni Battista Olivieri, anche a voi stessa vicenda, mancava solo questa ai comuni italiani, ma non ve ne siete accorti prima? Ma dunque, noi abbiamo in verità ereditato un po' questa situazione perché, come diceva prima lei, mi sembra che parlando del comune di Brindisi, il colmo è stato che praticamente rilevava questa Tributi Italia delle altre aziende che già avevano dei problemi, però nonostante questo, cioè nonostante avesse dei problemi, si permettevano ancora il lusso di acquistare società e aziende. Noi abbiamo vissuto una storia un po' particolare, nel senso che fortunatamente, forse essendo un comune più piccolo e quindi con seppur con le difficoltà di personale e tutto, ma con l'attenzione ai vari processi, ne siamo in effetti accorti subito. Poi, ecco, come diceva il collega, il sindaco, ecco, non è sempre così tutto facile, perché ad esempio proponeva questa società, Tributi Italia, dei piani di rientro che apparentemente sembravano buoni. Quindi in qualche caso, magari non è stato proprio il nostro, ma sappiamo che qualche comune magari ha accettato questi piani di rientro, per cui il trimestre slitta, il mese passa, si va avanti e il credito aumenta nei confronti di questa società. Noi in verità ce ne siamo accorti subito, quindi dico, è stata abbastanza, noi siamo forse uno dei comuni italiani più fortunati, a detta proprio del magistrato che per corso della Corte dei Conti ha seguito la vicenda, nel senso che accorgendosene subito siamo intanto riusciti a richiedere e fare quell'operazione di cash pooling, no? Che è quella che permette in automatico, insomma, dal conto, diciamo così, dicendolo in parole spicce, del debitore, così di fare un passaggio proprio di denaro e dei crediti che noi come comune avevamo direttamente dai loro conti al nostro, e chiedendo chiaramente attraverso un legale che non venisse pagato l'aggio, cioè a favore della percentuale che questa società Tributi Italia si teneva, per cui ci retrocedevano tutto il 100% di quello che incassavano dei tributi. Ecco, preciso che per quello che riguarda un comune piccolo come il nostro, noi rispetto all'ICI la riscuotevamo e la riscuotiamo tuttora direttamente. I nostri tributi erano quelli minori, cioè tipo la pubblicità e le affissioni. Quindi eravate, siete... Ecco, ma anche lei, come sindaco di Trezzano sul Naviglio, ha pochissime speranze di riavere questi soldi? Ma dunque, noi partivamo da un negativo di 200.000 euro, che per una cittadina di 12.000 abitanti comunque, insomma, non è poco. Fortunatamente siamo riusciti, ma immediatamente, perché probabilmente c'era ancora un po' qualche cosa da rossicchiare, intanto a discutere una polizza fiduciaria che la società aveva stipulato. E questo è stato uno dei pochi casi, e qui sta un po' la fortuna, in cui la polizza non era falsa, perché i nostri funzionari, e qui a volte, insomma, devo lanciare, insomma, una lancia a loro favore, si sono subito preoccupati di chiamare l'assicurazione e vedere se veramente esisteva questa polizza. Questa polizza esisteva, per cui noi siamo rientrati di 120.000 euro. E quindi in questo modo. Poi attraverso quel cash pooling, insomma, alla fine siamo riusciti a recuperare un po'. Ad oggi abbiamo un credito intorno ai 25-27.000 euro, quindi non è così drammatico come gli 800.000 euro che vanta il comune di Trezzano sul Naviglio. Io spero, sindaco, che non abbiate tagliato però diciamo, tutto quello che riguarda l'assistenza ai più deboli, chiamiamolo in questo modo, se mi sente ancora il sindaco di Trezzano. Su una cosa però sono molto d'accordo, e lo scrive anche una ex dipendente di Tributi Italia sulla pagina di Facebook di Focus Economia: strano che tutto questo venga fuori adesso, cioè c'è qualcuno che riscuote 100 milioni di euro per conto dello Stato, non li gira alle amministrazioni comunali e ce ne accorgiamo solo adesso. L'unica cosa che mi lascia molto perplesso, però, siccome non voglio deprimermi e deprimervi, restate pure in collegamento, perché vorrei chiudere con la notizia più bella della giornata. L'abbiamo data in apertura, ma forse ci torniamo anche un secondo. Massima solidarietà, infatti, all'iniziativa del Comune di Pisa, che ha aperto uno sportello psicologico per i politici rottamati, in previsione di Renzi forse, non lo so. Lo sportello, i pisani l'hanno già chiamato SOS Trombati, con l'ironia che gli appartiene. I politici in crisi di identità potranno rivolgersi a questo sportello, dove c'è una psicologa che stiamo cercando, magari domani l'avremo, Francesca Lemmi, che ha detto, serissima: attenzione, purtroppo per i politici trombati non vi sono molte alternative, o la via del ritorno al lavoro, mamma mia, oppure attendere passivamente momenti migliori. Il problema è che l'attesa passiva alimenta la depressione e pensieri distruttivi che rischiano di prendere il sopravvento. I problemi più grossi dei politici rottamati, quelli che non vengono rieletti, sono soprattutto nei riguardi della famiglia. La perdita di visibilità è stato un simbolo, non si ricevono più auguri a Natale, arrivano poche telefonate e nessuno si ricorda più del loro compleanno. Voglio che vi alziate proprio adesso e andiate alla finestra e l'apriate e vi affacciate tutti ed urliate: sono incazzato nero e tutto questo non lo accetterò più! Grazie al sindaco di Trezzano sul Naviglio Giorgio Tomasino, grazie all'assessore del comune di Ovada, in bocca al lupo a tutti e due, Giovanni Battista Olivieri. Focus Economia termina qua, noi ci risentiamo domani alle 17, comunque una buona serata a tutti. Radio 24, la passione si sente.